che sto usando l'MC50 come modulazione. Ottimo, Ancla, se non lo dicevi sembrava il 60. No, 50. È un MC50, processore inserito e Mickey Gain col 430 è a metà. Vabbè, è normale questo, è un microfono normale, 50 è normale. Se lo metto praticamente come deve andare col 60 è così, guarda, ecco. Così è come praticamente deve andare col 60. No, già cala, qua. Metti come prima. Per farti vedere la differenza, no? Mentre invece così devo tirare sul Mickey Gain, capito? Però non è neanche a metà, è quasi. Potrebbe anche andare. Gracchiante la modulazione, buona, com'è? Ottima, cla, pulita, non gracchia, la solita, dai. Non amplificata come sempre, però è buona. Perché si sente troppo la televisione, capito? Invece così non si sente molto meno, dai. Va bene. Ottimo. Sì, MC50, l'ho comprato da Gianni Capri 2. Sta parlando 80 e 50, l'80 l'ho prestato a Massimiliano a provare. E io il 50 l'ho preso per il 780 perché è vintage, capito? Anche il 780 della Kenwood. Però è così che lo provo col 430, col 440 l'ho già provato, anche col 430 va bene, dai. Ottimo per la truppa, va bene, ma la mia radio è troppo forte, ecco. Prova che mi ha tolto le cuffie. Guarda un po', 1, 2, 3, 4 e 5. Assolutamente no. Cappa di rosmetro, che gli ho regolato quel trimerino, era troppo alto il parlascolta, stavo innescando. E posso usare finalmente la Aure 3, diciamo, dai, la modulazione. Ecco qua, ho anche spento l'altro alimentatore e quindi va bene, beh. No, per me va bene, Daniel, non ci sono problemi. Cappa di rosmetro, va bene. Anda bene mela. Ma propagazione c'era 45, qua. No, c'era Luca con Massimo che stavano andando all'imbarco e gli ho chiesto un controllo, due di Cagliari. Gli ho chiesto un controllo per vedere se andava bene il 50, va bene. Ottimo per la truppa, sai che fate un casino niente il PTT, eh? Quello sì, sembra che lo prendi a colpi ogni volta il microfono, ma è nato così, deve essere, no? Sicuramente c'è il PTT e lock un po' più a molla, capito? Rispetto all'MC60, l'accompagni meglio, beh, però già va bene, a voglia, cla. Anda bene vera. Ehi, questo è Trio Kenwood, un bel microfono, beh. L'ho già avuto, l'avevo dato. Non ti dico a chi, ma l'ho dato a una persona che lo voleva e quindi gliel'ho dato. Ce l'ho ripreso per il 780, però ho detto, dice fare qualche esperimento e quindi niente, già va bene, c'è un bel vento caldo, bello mi. No, claro, ripeto, va bene, ottimo, bella, chiara e pulita, va bene. E che a voi Bugnetta non si è sentito oggi? Massimiliano, no? Sì, sarà ancora, che ora so, no, oggi è già arrivato a casa, sarà già arrivato a casa, ok, non sta entrando nessuno, io vabbè in questi giorni sono un po' assente perché ce l'ho a fare altre cose, non sta entrando più nessuno? Non lo so, qua, ieri, dopo, quando sei entrato tu, ho voluto chiudere, c'era un impegno. L'impegno del lavoro di là e oggi non ho sentito a nessuno, vero, ho fatto due passaggi con Birillo, te lo ricordi a Birillo di Giuseppe Palmato, la campanella, e me la sorte è lui. No, sono fatto le birillo, liscio, una vita che non lo sentivo, pensavo che se avesse venduto tutto, avesse staccato tutto, ma non l'avevo sentito nel 45. E allora, al 45, faccio prima dell'ora di pranzo, forse l'una meno un quarto, ma 5 minuti abbiamo fatto due passaggi che era in movimento, che stava provando di nuovo la radio, che l'antenna di casa viene scesa, e sarebbe ricomprare. E niente, e poi vedo un'occhiata all'antenna del trattore del mezzo, che è una pulita e una controllata. Però stavo uscendo bene, cavolo, sta arrivando forte qua. Vabbè, lui al campanello c'è una bella palmato, è un campanello, c'è una bella zona, sono andato a casa sua, ti aspetta una vita che non lo senta Salvatore. So che aveva avuto lutto in famiglia, mi pare molto il padre, e avevo mandato anche un messaggio di condoglianze su WhatsApp, però evidentemente quel numero non c'era più. No, mi ha detto che in pratica ha avuto problemi col telefono, ha perso tutti i numeri e poi non so che altri casini ha avuto, sempre con la scheda, col telefono, boh. Perché dice non sento mai nessuno, accendo non sento nessuno, ho detto, ma se tu accendi, entri verso la sera, tra le 6 e le 7, trovi qualcuno, ti fai due chiacchiere con noi sul 10, e gente ce n'è, ha detto che adesso provava. Sì, gente ce n'è, non è che ci sia al mondo, sempre le 3-4 persone ci sono, sempre gli stessi, non cambia niente. E io adesso sarò un po' più assente perché sto organizzando e quindi adesso piano piano e vado comunque quando sono a casa già, quando sono qua già, le radio ci sono, no, già va bene così, giusto per fare due chiacchiere, nessun problema. Attento, Massimiliano Bulldozer, Massimiliano non lo lasci ancora, ancora incicciato lo lasci, deve aver preso caldo oggi, ci siamo sentiti stamattina, ma detto c'era un caldo lì in quella zona. Ti credo, poi lì, all'aperto, in campagna, dentro il mezzo, vabbè già c'è l'aria condizionata, ma... No, oggi mi vanno la via, l'aria condizionata, anche la con il rullo. Sì, cacchio, allora sì, si è cotto al rosso. Ma così mi ha detto stamattina che era col rullo, quindi penso che non ne avesse aria condizionata a quel mezzo. No, perché quelli sono aperti, non sono chiusi. Allora si è aperto il gabbo oggi. Ma il gabbo a Mironi. Gabbo di Bugnè. Dice che ti ha messo il nominativo, Radio Spillo. Radio Spillo? Sì, ha detto il collega nominativo. Tu sei Daniele Radio Spillo. Perché sei magro magro? Andavè, almeno c'ho un nome. È bello Daniele Radio Spillo. È bello. Un bel nome attivo. Massimiliano te l'ha messo. Così mi ha detto, Daniele oggi si chiama Radio Spillo. Bene, benissimo. Tanto li si addice perché è magro. Capa Rogero, sai che a proposito magro magro mi hai fatto ricordare. Mi stava dicendo Luca del Monte che anche Salvedo sta ripiazzando tutto. Salvedo è lunga. Eia. Vabbè, Salvedo non è che ha attaccato niente. L'antenna c'è, quando passo lì l'antenna c'è sempre. Già va bene. E almeno rientra un po' di gente, dai. E allora, vedi, oggi dopo secoli è riapparso Salvatore. Poi se rientra Salvedo, e piano piano già. Già stiamo rientrando un po' tutti, dai. Io non ho per fare due chiacchiere la sera, è che adesso inizia l'estate, Daniele. Adesso inizia il caldo, io entrerò molto meno, gli altri magari vanno al mare, chi si trasferisce in campagna. L'inverno c'è più gente, l'estate a fare seduto qua, non so cosa vuol dire, io ce l'ho tutto aperto. Era tutto chiuso oggi, abbiamo aperto, ma certo, c'è un caldo da morire, c'è un caldo da morire, tu immaginati qua dentro, ci sono 26 gradi qua dentro, in questa stanza, quindi non è fattibile stare tutta la sera alla radio, capito? È bello a bordo piscina con una bottiglietta di birra ogni tanto, asciucchi andiamo. Mia cavo il bonietto. Allora Gabbo, il giorno di là oggi. Oh, lascia Pilli, ciao Cla, buonasera. Chi c'è? Tu chi sei? Don Daniele, ascolta, stavo andando con le MC50, però il Michini praticamente a metà con 4.30, prima va. Questo è il passaggio con le 50, Così praticamente il Mickey Gay ce l'ho quasi a metà, quasi a metà. Mentre così lo tengo con 60. Cambia la modulazione. No, è sempre uguale, è bella lo stesso. Gappa gappa. Ciao Daniele, la radio Spillo. Lasciami lì. Me lo stava dicendo Claudio, già va bene. Bene va. Dai, me l'ho studiato un pochettino perché si addice a me, vedrai. Sei alto, sei mingherlino. Io non mi posso pulire radio Spillo, a che non so con lo Spillo. Cappa di Rosso, andiamo in mela. Noi siamo Radio Ultralasci, quindi va bene Massimiliano, tenendolo così, perché si sente meno casino, vero? Essendo un microfono normale, sollevi leggermente un po' più l'amplificazione, dai, va bene? Sì, va bene, tu sei a metà adesso? Sì, a metà, sono sempre quei picciti, se fate un casino su PTT. Lo faccio levare un altro pelo. Allora, così si rova, ce l'ho a 3, da 1 a 3, quindi questa è la posizione del 60, guarda, così è la posizione del 60, lo vedi? Quindi così è la posizione del 60, così l'ho messa al doppio a 3 e così a 4, ma mi sembra troppo alta a 4, no? No, mettila a 3, mettila a 3, va bene. Va benissimo a 3, Cla. Ti lascio la 3. Sì, va bene, perché non si porta nessun rumore dietro, capito? Di nulla, televisione nulla. Sì, la radio è bella chiara, però è anche forte allo stesso tempo, quindi va benissimo. Ascolta, la timbrica è sempre quella. Avevi dubbi? Sì, ma si vedeva, perché il 50 è un microfono normale. Non penso che abbia la stessa capsula del 60, non lo so. Io ci può provare a provare, fanno col 430, si può provare anche a coso con che ho già mai capito, per vedere un po' se va meglio dell'80, quindi 3, ecco qua, allora la potenza ce l'ho a 20, 30, il microfono è a 3, sotto ho visto dove c'è il mic, c'è scritto mic, no? Sotto, dove c'è il 3, 2, 3, lì, tra il 3 e il 4, là. Va bene, Cla, e con la tua voce riporti bene tutti, dai. Non c'è problema, non c'è problema, mamma mia, ragazzi, io qua mi sono coscioso, ho la testa, è come che me l'hai aperta in due e dentro stia cucinando le uova, cazzo, mamma mia, mi sono coscioso. Con un mezzo di merda, scusando la frase, un rullo tutto usarrato, senza aria condizionata, qua mi sono incendiato lì dentro. Meno male che era chiuso, Daniele ha detto che sono aperti quei rulli, meno male era chiuso, ti sei un po' salvato. No, cosa cazzo ho salvato? Ho aperto un finestrino e poi ho preso un pezzo di tavola, era già trazzata da una modina, cazzo, mi ha aperto lo sportello, legato con una lenza, ho lasciato tutto il giorno lo sportello aperto. Ma qual è il rullo, Massimiliano? Quello col gommato e il rullo davanti? Eia, quello lì. Ah, no, io stavo pensando all'altro, quello solamente due rulli. No, quello non serve, per fare il rilevato quello non serve. Quello che c'ha le due ruote di ferro è solo ed esclusivamente per fare asfalto, capito? Cappa, e poi parlando mi sono ricordato che tu eri di là, in mezzo alla terra, là, dovevi rullare lì. Ehi, ma domani torno a mio Mazingazzetta, domani viene anche il tecnico e mi rabbocca l'aria condizionata perché c'è una perdita e ogni due mesi devo stare ricaricando, quindi adesso domani fa una ricarica, forse poi all'aria condizionata. Cappa di Rogero, va bene. E propagation ce l'era oggi? Zero, oggi ho sentito, lo sto dicendo a Claudio poc'anzi, ho sentito a Salvatore Birillo. Salvatore, siamo buoni, sono la vita, non lo sento io. Cavaliamo, gli è caduta l'antenna. Sarebbe comprare nuova quella di casa, e quella del mezzo sarebbe controllare. Sì, vabbè. Già ce n'è di antenne, se ne vuole. Basta avvicinare di là l'antenna, prende canto di voi. Brava. Ma sta andando questo? Ehi, alla grande. Sì, tutto a posto. Ah, che bello. Ciao Max, ciao Claudio. Fuggita se ne è. Che sei fuggita? Vieni qua. Mi dici? Ti dico, come stai? Tutto bene, tutto bene. Vedo così, ascolta, ma dietro l'hai messa Daniele? No. Che ho visto sempre più male. No, faccio per lui, io già cucino bene, però non lo so perché è così. Perché così, perché lo devi far mangiare. Ti saluto, non mi ricordo come ti chiami, però io sono Massimiliano. Al tuo uomo gli ho messo un radio spillo per questo motivo. Hai fatto bene, io sono Lorena, piacere. Ah, ok, ciao Lorena, buonasera. Daniele, comprati un altro baracchino perché tua moglie c'è meglio di te. Vero, va bene, lo vederò. Ne ho, se ne vuoi. Divorzio assicurato. No, piace anche a me il baracchino, quindi siamo in due. Io volevo abbassare la radio spillo, anch'io vende gasino, te la dico. Un'oretta, dai, uno svago. Dai, è bello, va. Caparroso, stavi dicendo qua che abbiamo sovramodulato, forse. Boh, non mi ricordo. Daniele. Dimmi, non si vede. Io piazzo un'altra antenna dal vicino e mettimi uno nel piano di tua mamma pure. Lo metto un'altra terrazza adesso, l'antenna ce l'ho, vi faccio una calata e via. E beh, appunto per quello. Allora, tanto quando avremo un altro che rompe balle, riuscì Massimiliano? Avremo un altro? Se rompe balle, ne avremo un altro fra poco. E perché, chi entra? Lucariello. Vabbè, Luca già c'è da un bel po', dai. Adesso ci mette l'antenna come Cristiani, lì dalla donna anche lui, così fa stare zitto un po' la terroce. Mi sa che dalla donna devo andare a metterle a posto quella lì e quella deve rimanere. Non può mettere altro qua. Possiamo mettere altro, Massimiliano. Se andiamo io e tu, e vostro esce, abbiate l'antenna. Ho mandato un video, c'è una ringhiera bellissima, bellissima nel poggiolo. In chili ti pongo un tubo da 3 metri, 3-4 metri e ti piatto l'antenna e sale come ha fatto Massimiliano, come ha fatto Daniele, uguale, precisa identica, però è tutto in piano, non è a lui di Mantovana. E allora si può fare, sempre che te lo permettano, perché questo tubo in facciata così non è a tutti che permettono, capito qua? Ho capito, ci mette un'antenna tipo me, giusto per fare due chiacchiere. E per divertirsi, perché così non si diverte, quindi vuoi andare anche Sant'Enna, quindi vuoi andare a Lugo, anda. E io fai parlare a tua moglie un po', Daniele, che esce meglio di te, dai. È fuggita. Le donne non le piacciono, nel radio sono poche quelle che parlano in baracchino. Cavala, mi lavi, tornate, aspetta. Forse le piace la mia voce, Daniele. No! Scherzo, Però io molti anni fa ero ucciso da un volontario a Sorso e quindi lo usavo parecchio il baracchino. Allora vedi, infatti gli ho detto, dagli una tua moglie e uno lo usi tu, tanto ce ne sono lì. Già ne ho qua, ma questo non lo do, Se non è quello, guarda, forse uno degli unici che esci bene, quindi, non lo so io. Daniele, ti ricordo che c'è anche il tuo qua. Quello lascialo lì, se no me lo tieni anche quello. No, quello non si tocca, lascialo stare dove. Quello serve per battagliare. Vi posso dare il 48 normale. Ho detto, ma la televisione si sente, ma di meno, Massimiliano, no? I rumori si sentono di meno. No, non si sentono niente. Ma è da dove? Appena 40 già si sente, dai, di meno. Sì, leggero, leggero, ma quando attacchi il 60 si sente anche Anna quando sta respirando. Sì, vabbè, ma se questo è la vacca. Ecco, vedo subito. Allora, un bugiolo, non vorrei, ma se va tenuta. Capito? Ci ho tentato quando erano non piano, ma non si affacciava. Perché si legava, capito? Lo sapeva che era un cazzo, ce la buttavo giù. Mamma mia, questo, ma come sono cambiato terra io? Ma no, no, no, è bello, Bello era, bello, bello, bello. 15 metri di cavo, io ma ce ne dà, 15 metri di cavo. No, vanaggio, quasi 50. Quasi 50, ne ho. 40 e più di 40 sono. Cava cava, mi sembra che oggi mi tocca che salire da suocera. Dove come sta? Oh, no, novità non ce n'è. San Francesco come sta? Sì, così da. E piace a lì adesso là. Poi c'è Gaia che deve giocare giù a pallone con gli amichetti, capito? E mamma mia, va. Caruti si rientra tardi, la sveglia è presto al mattino, ma... Fine settimana che tu ti puoi trattenere, digugliare. Cioè ti capisco, non c'è un'idea, l'ho fatto per quasi 30 anni, per 30 anni. L'ho già fatto per 39, tutte le mattine alle 5, tutte le mattine alle 5, sia quando ero a Porto Pose che quando ero... Nel settore idrico, capito? Non sento parlare quando ho fatto un anno e mezzo a Cagliari, allora non ce ne va vita, perché ogni domenica mattina praticamente alle 4 in macchina e alle 7 ero a Cagliari, quindi ti capisco perfettamente, i giochi non è che si potevano fare molto. Lo saccio. E adesso da lunedì iniziamo i turni, forse, per la strada anche, e quindi facciamo dalle 6 alle 2, dalle 2 alle 10, però io non so se li faccio. Aspetta un secondo, mi vuole Gaia. Ehi, già va bene, già va bene. E quindi, Daniele, che si dice? Sì, cioè siamo qua, cla. Siamo qua a inventarsi qualcosa. Ballerina. Ciao Daniele. Ciao Gaia. Come stai, Carito? Bene, benissimo. Saluto, sarà io. Caparoggio è Danielito e Claudito. Cosa ha detto Caparoggio? Claudito e Danielito. Cava cava. Ah, mi sa che poi se ne è voglia quando porti giù il cane mi avvicino, ti fumo la sigaretta e gli faccio una chiacchierata, cosa dici? Alla grande non ce n'è problema, non ce n'è problema, tanto lo porto presto perché lo porto anche dopo cena adesso, capito, a fare un po' di pipì, verso le 10 così, 10 e mezza, 11, verso quell'ora lì lo porto anche. Prende una boccata d'aria, se non ti va giù fubiacca, se no 26 gradi vicino, ed è tutto aperto. E un bel caldo, c'è un bel caldo. Un bel caldo, però pure con le calze. Va bene, dai, oh ragazzi, io vi lascio e vado a farmi una bella doccia fresca. E poi Claudia ci sentiamo, dai. Non lo so, ci sentiamo dopo MotoZappa, dai. Ok? Sì, intanto tu prima delle 8 non sali. Ma io prima delle 8, se io prendi la doccia. Le 7 e un quarto, 7 e mezza, quell'ora lì sarò già su, dai. E vabbè, accompagna loro e poi passa, dai. Già, fammi un vocale così scendo, se sono già salito. Lo porto prima al cane, dai. No, portalo alla stessa ora, non sa di nafuti, no? Guarda la stessa ora, poi se sei giù è meglio, dai, rimaniamo un po' giù, tanto all'interno dentro casa c'è caldo. Cappa cappa, dai, io vado a farmi una docetta. Ciao Daniele, ciao Lorena, ciao Claudio, ci sentiamo a più dopo, dai. Ascolta, ma lo vuoi provare questo? Allora, se va meglio di quello lì. Boh, cosa vuoi dire? Boh, dammelo. Ma lo sentito che... Non si sa mai, capito? Non si sa mai che vada meglio. Ma ti salgo l'80? No, non c'è bisogno. Lo vado lo fai sentire, chiaramente devi tirare su il un pochino il ma. I parametri più o meno sono quelli, io ce l'ho a 3, ce l'ho a 3 col processore inserito, quindi però si pure che vada meglio rispetto a quello là. Non penso, e comunque io l'80 te lo sa, cosa mi viene una casa di microfoni da buio. Ti porto sull'80 e mi porto giù quello. Come vuoi fare, non c'è un problema. È giusto per provare, capito? Non esiste un problema. È per provare se va meglio di quello lì. Perché, caspita, sta andando di lusso. Sta andando di lusso con la mia voce. Ora sì, che con la tua vada bene lo stesso. Lo provo, dai, lo provo, Claudio. Però ti salgo su questo, ah, poi già tra fine settimana, poi se in caso ci possiamo anche vedere per fare di nuovo lo scambio, non è un problema, no? Ok? Sì, beh, questo te lo faccio provare, Massimiliano. Perché gli ha già giubilato per il 780, che è vintage anche la radio, e questo è il suo microfono da tavolo, il suo originale. Ce l'avevo già, poi l'avevo dato, adesso me lo sono ripreso. Vabbè, intanto venerdì dobbiamo fare anche l'altra prova, quindi vediamo un po', quello che va meglio lo lasciamo. Va bene, ascolta, cosa faccio? Te lo salgo il Cobra col Turner? Devo attaccare un po'? Ma ci vedi là, se vieni ti faccio vedere come sono organizzato. Ho staccato anche quello, Daniele, l'airbag, tutto, non c'ho niente. No, posto manco a misericordia, perché c'ho tutti gli MC60, l'SM20, adesso si è aggiunto l'MC50, non c'ho posto di niente, lascia il candiero dopo. Già io uso questa la radio, poi se devo fare un po' di casotto ci metto poco a attaccare il 48, capito? Però non ho posto la ciglia, e a metterlo dentro l'armadio. A proposito, adesso ti do anche quell'altro, lo Zeus. Ah, è vero, venne girato in giro. No, era per farlo girare, mica adesso è un po' spento, già lo sai. Se lo volevi così, giusto per, capito, farlo girare un pochino. No, ma sì, è un bel ragione quella radio, non ho posto. Ti ripeto, per usare il 48 e fare un po' di casotto, il 45 lo devo appoggiare sopra il 780. E non fa. Eppure devo appoggiare anche come piace tenerlo lì sopra, no? Capito? Lascia lo stare dove già, non levare un raio. Ogni tanto lo alterni, togli il magnum, mettilo in un posto dove si c'è il coso a 3. Non vuoi quello a 3 come un trattore anziché a 2? Ma già ne so, cosa dice? Meglio mettere quella a 3 e piazzare anche la... No, la salraio, no, ne ho due, qua. La polinurata ancora, mamma mia, come sto. Boh, non lo so, manco io, non lo so. Vabbè, poi decido, va, non mi mattare lo zaibedo. Daniel! Che va? Dai, riprendi tu, dai, che io mi faccio la luce, sennò cominciamo. Radio qui, radio lì, se no svuoto la scatola. se tu cominciamo il radio, dimmi che lo svizzino, il vision radio, boh. Vabbè, c'è anche quell'altra scatola, c'è anche quell'altro 48, quell'altro che hai preso dalla macchina, e su, ma ci vediamo, l'imposto è quello, che non è che puoi mettere le radio una in un'altra parte, no? Se metti il 50, l'80, 60, quello che vuoi, e poi devi mettere il pane più 3, cioè non c'è posto, non c'è posto, ma scendiamo. Adesso la fai indietro la radio, a futti di. No, due va bene, capito, cioè quella là è questa, è perfetto, claro, così non... è l'unica cosa che ho agganciato quel coso là e boh, basta. Ho agganciato e capita che serve, cioè, capito? Sì, infatti, lascia tutto così a futti di. Non ti preoccupare, lascia tutto così e fottitene. Va bene, vai. Io stacco questo microfono, qui te lo do e lo provi. Me lo fai sentire anche domani, intanto stanotte sicuramente rientro in tardi. Me lo fai sentire, ho l'impressione che va meglio questo che l'80, capito? Positivo, magari te lo salgo quello lì, questo te lo salgo, se no mi riempio la casa del microfono. Ascolta una cosa prima di chiudere, segnale com'è? 1, 2, 3. Ma questo che radio è? Questo è Magnum. 9.10, un picchia 9.15, sì. Non sale molto, va. Daniele, ti è aumentato un pochino? Come sì, stai arrivando, quanto arrivi? Ah, Claudio, 9:15 modulati, sì. Dai, ho provato a lanciare un pochino quello là, ma a 12 non è che funge più di tanto. Bravo, mi sa, l'importante è muta 6-9, fai 9-9-15, dai. No, qua 9-10-9-15, cioè va bene Massimiliano. Là un aiutino, cari, sono 40 watt, noi ti aiuta là. Va bene, ciao, se no sono con tutta la gira radio e l'ho fatto, va. Ciao, allora più tardi, ciao, mandami un vocale, vai Dani. Ehi, AK, ciao Massimiliano, ci ascoltiamo alle plus, se quando coincide, dai. Va bene, ok, riprendi Claudio. Ehi, vediamo se mi senti da qua. Hai sciogato 2 metri. Aspetta, sto prendendo questo Venus che ne ho ripreso. Tiriamo Massimiliano. Ecco qua, c'era dentro l'armadio. Ecco qua, c'è l'armadio. Cerca di mi cagli tutto in nato, radio peso 3. Mi senti lo stesso, sì? Carpa Roger, Ocla. Vabbè, era una prova, adesso la fa Massimiliano. Questa prova, vediamo se va meglio. Cioè, gli ho fatto l'80, però a qualcuno convince, ad altri no. Adesso prova il 50, così nella posizione che lo sto provando io col 30, a 3 di preamplificazione, processore inserito, tenendo conto che questo microfono normale, la base, sempre della K. Va Rogero, deve provare un po'. Vedere cosa dice. Ehi, magari va meglio, dell'80, non so, 80 c'è la capsula piccola, molto, molto compressa rimane la modulazione, magari questa rimane più allegra. Questa è buona, ottima. Poi vabbè, sempre chi comanda era timbricare la voce mia alla fine qua. Lo so. Lo sgaccio. Sì, no, questo per il 780 in FM e in banda laterale è favoloso il microfono, il C50 andava molto bene. Poi ti ripeto, il microfono originale da tavolo del 780, di quella serie lì, 780, 720, 730, capito? Tutte quelle radio vintage, UHF, HF, quelle radio lì. Questo è il primo microfono che hanno fatto, infatti è marcato Trio, questo Trio Kenwood. Cavaraba, il migliore che facevano era. Questo è massiccio, è un bel microfono. Si assomiglia molto all'MC60, la struttura è quella, sempre quella lì. Però è... il colore è diverso, è proprio del colore della radio, capito? È del colore della radio, è un beige il microfono, mentre l'altro invece è grigio, capito? Gava, ma cosa, quello di Itri che fine ha fatto, che entrava in radio? Quello di Itri, e chi è? Non lo ricordo, uno di Itri entrava ogni tanto qua in radio, anni fa. Ma cosa stai dicendo, tu già qua? Non l'ho più sentito, non so se sia ancora attivo, ma penso di sì comunque. Non ho più sentito. Adesso mi hai fatto ricordare. Un bravo tecnico Gianni, che fa lavori di elettronica, di cose, autocostruzione, impiantistica. Ciao, già mi ricordo tutti i discorsi che faceva e tutte le cose. Bravo, adesso lavoro, quindi è chiaro che già fa. Gava, manda benedetta. Gai este, già va bene. Io mi sa, qua mi sento 5 minuti e vado a fumare una sigaretta. Vai. Già ci sentiamo dopo, già sono qua, c'è 10. Capa Rogero, dai, sentiamo tra poco, Ehi. Ora, attenzione, binario 10, Gabbio. Beh, tutti morti siete, c'è qualcuno? Chi sei, Fammi? Non lo so. Ciao Gianni. Buonasera. Ciao, lo so, sì. Ci sono solo... a poco, dai. Sto facendo chiamata, c'era qualcuno ma non risponde nessuno, adesso risposto tu. Anche io stavo ascoltando qualcuno in banda laterale sul 36 mi sembra, però siamo per arrivo, siamo lo stesso. Tipo spagnoli, turchi, una cosa del genere, no? Non capisci. Vabbè. Non mi trattengo molto perché poi devo andare in farmacia a prendere due medicine per il cane che ci ha preso come si chiama, una cistite e mi sta facendo sempre sangue all'organo genitale a gocce e te l'ha fatto il veterinario e mi ha detto guarda, le cistite sicuramente qualche cosa che ha leccato, che l'ha infetta e l'ha fregato. Aveva un maschio, quindi ha la maschio si fa. Quindi antibiotico? Antibiotico e poi devo dare anche antifiammatori. Le altre pastiglie costano 60 euro. Hai dubbio. Vabbè, se la bile è luce, interessante che lo veda che stia bene. E poi un amico mio, poveraccio, la moglie ce l'aveva tranquillo il cane, dice che è andato questo cane corso, gli ha dato un morso e gli ha troncato la gamba, la zampa. Questo signore è andato a toglierglielo e ha morsicato anche a questo signore, insomma ci vogliono 700 euro per operarlo. Ancora non ho capito, questi cani bisogna tenerli come si deve, museruola. Specialmente se non è un cane educato bene, perché mio socio ce l'ha un cane corto, ma guarda che mi veda, mi fa effetto questo cane. Dice che non c'era manco il padrone, che non sapevano di chi era, capito? Non sapevano manco di chi era, non c'era manco il padrone. O è scappato questo cane, è stato abbandonato, boh. Ed è un bel aggressivo sia con le persone che con gli animali. Beh, comunque non riesce a portarlo via qualche canile, boh. Non lo so poi com'è andata, ma aspetta, 700 euro ci vogliono per operarlo, se l'ha troncata, c'ha una frattura scomposta. In caso è piccola la testa che c'ha, la mascella enorme, che secondo me quello mio socio ha una testa due volte quella di un cristiano. Ieri sono andato a fare il vaccino a Tyson, c'è entrato questo cane corso che stava starnutendo, tutto starnutire, e usciva sangue dal naso e come starnutiva schizzava la bava a tutte le parti, cazzo, giù di tiroghi, gli aprisci l'ombrello e il veterinario ha detto intanto non è urgente, dai, aspettiamo un attimo, sarà qualche forasacchi che è entrato, lo dobbiamo addormentare e togliere. Aspettato, poi ha visto che stava facendo un bel sangue, allora l'ha fatto l'addormentato intanto che visitava gli altri e poi praticamente gliel'ha estratto. Infatti mi stavo volevo dire, stava qualche parasacco a questo periodo, mi stanno a cadere per i piccolini. Una volta il mio nell'orecchio ne aveva roba di 3 o 4, era un bretto, no, da caccia. E vedevo che stava sempre sbattendo e mi veniva con la testa, mi appoggiava l'orecchio ai piedi, poi me l'ha fatto capire che aveva un problema alle orecchie. Non sono mica tu. E invece io a te lo sentivo leccando, ma insistentemente stamattina verso le 6. Mi sono alzato, era una botta di sangue, c'era praticamente tutte le goccioline che discendeva, tutta la casa, guarda un casino qua. Subito ho preso e ho messo soluzione fisiologica, l'ho finito con la soluzione fisiologica perché ho pensato che magari grattandosi si fosse agganciata l'unghia, capito? E magari si fosse tagliato, invece non era così perché l'ho controllato bene e non ce l'aveva di taglio. Era proprio un'abilità pneumatica dall'interno, proprio dalla vescica, dall'urina? Sì, è una cistite che c'è. Penso che se l'ha presa da qualche pipì in fretta, qualche cacca che ha odorato, qualche cosa del genere. Sì, hai cambiato l'apparato? Sì. Questo qui è il 48. Esce bene, e poi l'eco non disturba qua, perché a volte con l'altro ho difficoltà a ascoltarti, che forse la ripetizione è troppo forte, questa invece ti ascolto veramente bene. E senti questa, cambio! Micidiale, aspetta che accordo un po'. Perché era accordato? I canali alti devo essere. Ora, ecco qua. Vabbè. Propagazione non c'è la fessa di oggi là. Almeno le cali normali. Strano che c'è sto caldo, boh. Pensavo ci fosse qualcosa. Sai che avevo fatto collegato le isole di Capo Verde? Qualcosa in Nord Europa, Germania, Belgio, così. No, va bene questa antenna, Tu conta che è quasi intera la mia antenna, attaccata alla facciata. Però sicuramente sul tetto darebbe altre soddisfazioni. Ma mi ha contento così per adesso. Ci è arrivato, hai parlato? Sì, sì, mi ha dato addirittura segnali. Lì in Belgio addirittura mi dava 9,20, io a lui lo ascoltavo 6,7 qua, al massimo. Lui mi dava 9,10. Buono. Ma il mio è un po' avaro questo strumento, specialmente quando lo accendi è un po' inchiodato, poi quando scalda va parecchio, diventa fluido, non capisco cosa cavolo sia. Pagano. Oh, yeah. Comunque se rende fai bene che io l'avrei messa sul tetto direttamente, ma fa un bel casino quando c'è il vento. Mi ha detto di 9 questi ampere, siccome si piega molto, perché è una canna a pesca praticamente, in più c'è anche il filo attaccato all'esterno, è tutto attaccato con un vulcanizzante, quindi non dovrebbe né vibrare né fare rumori strani, però ripeto, non lo so. Si piega un bel, comunque si presta molto al vento, quindi non dovrebbe. Poi ho letto anche così, anche su internet, poi non disturbo, ho visto che non disturbo nessuno. Che cosa è? Di vetroresina? Sì, la canna vuole in vetroresina, niente carbonio che carbonio disturba. Vagava. E il carbonio attira i lampi, i fulmini? No, proprio disturba l'antenna vera e propria, ci vuole solo vetroresina. Volevo farne un'altra, state lavorando lì da Decathlon, che costa sulle 14,99 l'antenna, però è 7 metri, questa che ho usato io invece è 8 metri, quindi riesco a fargli avanzare anche il palo per sistemarla, farla bene. Lì ci vorrà qualcosa da inserire all'interno, un pezzo di un manico in legno, qualcosa di robusto, sempre isolato. Sembra che ci sia il mare, sotto sì. Sono al telefono, un attimino. Immaginavo, cazzo. Eccile! Hola, Gianni. Che è? Avanti! Ah, mi lascio Gianni. Ciao Gianni. Sono Daniele, buonasera. Ah, Daniele, questa così Gianni non profetta. No, io non profetto. Non profeti nulla? Come va Daniele? Tutto bene, tutto bene. Non ho capito chi sei. Franco da Sassari. Come si dice? Fuoristrada ne stai facendo sempre, Dani? Ciao Franco, cosa hai detto? Dico, fuoristrada ne stai sempre facendo? No, siamo fermi in questo periodo, Fra. Siamo fermi, troppa polvere. E poi adesso non so se qualcuno ha impegnato questo allestimento del rally. Trick e ballacche. Beh, sicuramente ci sarà Paolo, no? Nel rally. Paolo sì, cioè Paolo e Antonio. Antonio è quello che ha il Suzuki nero. E gli altri, Tore e Donato? No, quest'anno mi hanno richiesto sempre due nel volo. Vabbè, Antonio è fisso da 2 anni ormai, ha preso a loro e fa che allestimenti scala a piccare queste cose. E quest'anno si è messo Paolo ad allestire, a fare qualcosa. Anche erano fatto qualche stand? Allora, a stand non lo so come sono messi, perché c'era la possibilità come l'anno scorso di farlo giù all'Itiri Arena lì al villaggio, però non so chi era disponibile, chi voleva farlo, chi no, boh, io non sto qua. Non li sto seguendo più di tanto perché ho altri impegni per la testa. Vabbè, anch'io sono così. Non mi piace prendere impegni che poi non posso mantenere, quindi sono per la libertà. Perché poi già lo sai, non sono impegni leggeri, ma sono abbastanza impegnativi. Lo so. Devi dare disponibilità nel tuo tempo, insomma. Si fa quel che si può, dai. Quando posso ci vado, mi faccio un'uscita con gli amici e basta, tutto lì. Si conferma, si conferma. No, perché mi sto dedicando, diciamo, al lavoro, anche sono impegnato con lavoro e tutte cose. E non fa, l'anno scorso ero più libero, già l'ho fatto l'allestitore Rilli. E a posto così, quest'anno basta, vita sicca, non ho chiesto pure dei commissari di percorso, ma chi voleva partecipare, ma zero, non c'ho tempo. E infatti, pazienza, il lavoro prima di tutto, senza quello non possiamo andare avanti, non possiamo neanche fare i nostri hobby e divertirci. Io l'altro giorno sono sceso a pescare, quindi mi sono divertito un po', lì dove vado io, a Mare dei Funi, la costa che va da Coscia di Nonna verso l'Argentiera, abbiamo un paio di discese bruttine lì e ci divertiamo lì, dai, sia a scendere che poi a pescare. Caparrosi, hai tutte e due, sì, da pesca in macchina, va bene. Anda bene, Meda. Tu vuoi dire un'altra cosa, mi sono dimenticato. Che mi manca un po' il controllo di trazione. Se questa non ne hai, quindi devi andarci un po' spedito, se no rimani in twist, rimani fermo. quando è così, è tutto a piede frizione, e via che si va. E questa c'è il cambio automatico, ma già va bene, mi trovo bene col cambio automatico. Devi avere un tipo di guida diverso. L'altra andava piano piano tranquilla, quando girava a vuoto si fermava la ruota, andava sulle altre due, e quindi non ci sono problemi. Qua c'è un tipo di guida diversa. Tu, penso che neanche tu ne hai controllo trazione, no? La mia non sa neanche cos'è il controllo trazione, pensa tu. Però c'hai molta escursione di sospensioni, tu, perché la tua è molto molto alta, dai. Sì, quello sì. Perché se già lo sai, quando non c'hai ripartizione elettronico, diciamo, di trazione, come una gomma non gira a vuoto, sei fermo, Appunto, e sono varie teorie, dai. C'è quello che gli piace di più l'elettronica, c'è quello invece che non la può neanche vedere, preferisce avere molta escursione affinché le ruote rimangano sempre a terra, come la tua. Sì, in qualche maniera ti devi organizzare, diciamo. Sì, la mia, il bello di quella è che, oltre che altro, vabbè, la posso anche abbassare, vabbè, con i gommoni che ho posso fare, non posso scendere più di 7,5, dai, come assetto, adesso c'ho un più 10, però l'ammortizzatore dietro sono un 12, capito, assetto 12 e davanti è un 10. E quello che conta è l'escursione, quanto allunga, dalla posizione, diciamo, normale, quanto arriva a allungare. Sia da una parte che dall'altra, sia davanti che dietro. Quando allunghi 20, 40, 50 centimetri, la voglia che tocca rimane sempre in trazione la macchina. Sì, si conferma, e te la fai così alla fine la ripartizione della trazione, capito? Perché col cambio manuale, senza elettronica, se una gomma gira a vuoto si ferma tutto. Sì, non devi andarci spedito, non è cosa per andare piano, piede tutto a fondo e via. Sì, non ferma, e tante sbattulate che ti prendi poi, cro. Infatti ho buscato un po' di lamiere da 5 mm in alluminio, per lo mando all'atto, ma devo sagomarle, forarle e metterle sotto, dai. Ah, le hai procurate poi? Sì, le ho recuperate un po' di lamiere. Però so, ripeto, no? Ci vuole un monte perché bisogna fare delle sagome, prima, non so, fare il cartone, presentargliele e poi per tagliarle, dai. Farti i disegni e poi il disegno trasferirlo sul metallo. Capo Roger, va bene. No, adesso mi fa le uscite. La prima uscita adesso è... Quando è? Quando c'è il... aiutami a dire, quella che organizza Pinuccio Mele. E a me, a memoria, sono peggio di te io. Il Land Rover. L'uscita che fa lui, pronto, dai. Scappa, l'uscita Land Rover. E poi c'è i tiri in 4x4 e poi qualche altra cazzatina. Sì, bene, ma se ce la faccio voglio andare a vedere il Rilli, se è lì a Monte Baranta, a Olmedo, che è vicino, pomeriggio, oppure lì alla fine verso l'Argentiera e Sentino. Guarda, il posto più bello è l'Argentiera, la domenica, lì è, guarda, è la 10. Perché io sono stato lì dentro la miniera all'estendo, però alla fine non ho messo granché. Cosa mi consigli? Dove andare? Io se proprio dovessi andare a vedere, voglio andare all'Argentiera. Proprio l'Argentiera? Dove passano? Scappa, lì l'Argentiera, forse già ho proprio quella strada lì dell'Argentiera, che poi sbucano alla frana. Ho capito. È un bel percorso. Cavolo, quello è la parte, diciamo, più spettacolare da vedere, capito? Oltre al salto che c'è là, così, alla dei Sardi, dove che fanno quel salto. E lì a Montalerno. A Montalerno, bravo. Lì, l'Argentiera e Montalerno sono i due punti più spettacolari. Vediamo, allora, mi hanno consigliato anche Montebaranda, che hanno fatto delle modifiche, non so, forse al tracciato, al percorso, hanno fatto qualcosa di carino, da vedere, dai. Poi dipende dai gusti, perché quando hanno fatto lo shutdown, lo stesso lì che partiva da Olmedo, ma niente di che, lo stesso lì, non mi gustava. Le cose belle sono belle tornate, belle curve, allora entrano in controstrada, esatti, soprattutto i salti. E si conferma. Ero con Gianni, del più room, è andato al telefono, non è più rientrato, telefonata lunga. Allora mi sono sentato 10 minuti, sono andato a fare anche una commissione, c'era anche Claudio, non so se magari è impegnato e sta facendo qualche cosa. No, sono entrato io, c'era Gianni che sbadigliava, insomma, ma gli ho detto, qui c'è sonno. va bene. Anzi, gli ho detto, qui c'è fame, lui ha detto, no, è sonno, è un po' stanco. E allora si è dormito. Si è dormito al telefono. Adesso mi si ricarica le batterie e ritorna a me. Ascolta, ne senti alternata quando lascio il bianco? No, è pulita. È perché ho allontanato il trasformatore, prima era attaccato alla radio, adesso l'ho messo più giù in basso, sopra una colonnina là, per avere meno di disturbi, quindi funziona. Funge, puntella, ottimo lavoro. Puntella, che... Cava. È così. Sì, da un po' non stavi entrando in radio. Io ogni tanto qualche diretto ho fatto. Qualche volta con Giulio ho parlato. Una volta eravamo in banda laterale. E basta, poche volte anch'io, Cavolo, ora me ne vado al 45, quando c'è propagazione, metto a fare un po' di bordello lì. Poco fa ce ne stava entrando un po' di propagazione qua in FM, sentivo gente. Invece su nei canali alti nel 45 non c'era neanche sulla frequenza di richiamata 555 27, anche lì non c'era nessuno, stava iniziando un po', forse più tardi. Adesso inizia lì, verso quest'ora, se non c'è, diciamo, da mattina sino alle 3, alle 4 del pomeriggio, dai, poi già prosegue perché c'è un po' di alti e bassi. Si apre un po' verso quest'ora. Mio taglio ha collegato le isole di Capoverde, e poi un po' venire Spagna, Francia, Germania, proprio così. Belgio, molti italiani in Belgio ci sono. Sì, quando senti italiani e ti rispondono in italiano va bene, quando devi parlare in inglese o altre lingue è un po' mancello. Io ho fatto un po' di francese, come si dice, è Mari Buru. A livello scolastico? Capa, prima ti facevo fare il francese, praticamente non è servito a nulla. L'inglese è quello che va avanti, si porta avanti l'inglese, non c'è da fare. Sì, ora come ora sì, è tutto in inglese ormai. Tutto in inglese, se non ne capisce è perso la guerra. Mio figlio dall'asilo già gli insegnavano qualcosa in inglese, quindi poi arrivano, quando sono grandi che sono già preparati, hanno già una buona base, poi da piccoli sono spugni e imparano subito. Sì, no, io proprio sono negato per l'inglese, per me sono refrattario, non mi entra. Sì, anch'io. Infatti quando faccio qualche viaggio è sempre difficile farsi capire in inglese. Il francese è più semplice, il spagnolo, vabbè, ti arrangi, è un po' più semplice. Ma è tedesco? Con l'inglese, cavolo, se quando usi di parola tu puoi un'altra contemporaneamente. Sì, ho detto tedesco, non volevo dire inglese. Non parliamo di tedesco, che anche lì, anche se qualche parola la capisco, che ho dei parenti tedeschi, sono stato anche in Germania un tempo addietro. Gava. Magari anche quello sarà più semplice dell'inglese, sembra. Non lo so. Io ho delle cugine qua che sono arrivate alla Germania, trovano lavoro come niente negli alberghi, specialmente alla reception, perché sono molti turisti qua tedeschi che vengono in Sardegna e quindi sono ricercate queste ragazze che parlano bene il tedesco, no? Se le lingue sei avvantaggiato, ed è molto pure. Esatto, quindi il turismo qua non sta rimanendo più niente in Sardegna, non c'è più lavoro, no? Purtroppo è così, siamo messi maluccio. Tu che stai combinando? Io sempre nel solito posto. E voi non ricordo, ma cos'è, roba di meccanica? No, ambulanze. La meccanica che mi ricordo la tua macchina dov'era, sempre lì punti, no? La Santa Rosa, dove la vedevo? No, la mia la vedi in via l'Italia, quella zona lì. Ah, sto confondendo, c'era un fuoristrada prima, un Land Rover bianco parcheggiato lì sulla strada che va verso lì punti, quel capannone dove essere da fanno, siamo hanno cambiato, prima vedevo la macchina forse lì. Ah, da cosa, una belle auto. Quello che c'era sulla destra, tra Sant'Ossola e le punti, forse era belle auto. E c'era un Land Rover bello alto lì, lo stavano anche vendendo un periodo. Lo sta tuttora vendendo. Si chiama... aspetta che te lo dico, porca miseria. Fa Dettori di cognome, mi sembra. Se non sbaglio, E poi pensavo fosse la tua quella lì, quella che volevo. No. La sta vendendo, ma è anni che la sta vendendo, adesso è sceso da 14.000 che ne vuoi, ma è sceso a 9.000. Vabbè, se ne vale, tu l'hai vista? Giuseppe Dettori, ex belle auto, dai, perché hanno chiuso. Sì, hanno fatto un'altra cosa lì, adesso non mi viene anche in mente. Come macchina se li vale, perché c'aveva anche qualche modifica, no? Qualche prova tua? Non so, guarda, ce l'ho davanti adesso perché ho guardato il nome. Diciamo, vabbè, questo è già un TD5 del 2005, c'è una bella escursione, un po' di assetto già ce l'ha, qualcosina ce l'ha. Diciamo, dai, è un buon prezzo. Ma non l'avevo vista così di sfuggita. Sai che è bianca lo stesso, anche quella è bianca. Sì, questa è bianca, gli ha fatto la capotta nera, che il tappo là della capotta gli ha fatto tutta nera, non so per quale motivo, ma così si squaglia prima al sole, si cucina come un microonde dentro, beh. Sì, ma secondo me se questo gli dai 9.000 euro li stai portando via. Gaffa, lei era proprio non è il massimo, a meno che non abbia la doppia capotta, No. Capotta originale dipinta di nero c'era. Ah, sai cosa? La sciogliera bianca no, gli faceva schifo le vessere. Non ci ha pensato magari, non sa che il nero ti fa ribollire la carrozzeria. Dove ti dica, vabbè che è un po' strano quel ragazzo. Avevo visto il padre io lì, quello che c'era lì nella concessionaria, penso che fosse il padre, no? Sì, era a livello familiare, c'era il padre, io all'epoca me la voleva dare 3 anni fa, mi ha detto, guarda se vuoi 14.000 euro, ma tu sei fuori, ha detto, no, lascia perdere. Ti è sempre piaciuta Land Rover, quella macchina lì? Sì, conferma, sì, però io vengo da un Mitsubishi, fa neanche un paragone del Defender al Mitsubishi. Sì, sì, ma era sempre elaborato. Leggermente io assetto avevo anche lì, ma poca roba. Poca roba, perché con quella potevi fare molte elaborazioni, capito? Il modello vecchio, quello che c'è il telaio separato, dai. Quella a Longheroni era, sì, telaio separato a Longheroni. Che secondo me è il migliore che esiste, il telaio così. E ho fatto appena di body e un po' di ammortizzatori, boh, finito. Comunque se la cavano bene comunque, anche i Mitsubishi, certo non era estrema come quella che c'hai adesso. No, il problema è che c'avevo dietro, vabbè, era al ponte rigido e davanti era sospensione indipendente, ma non facevano, poca escursione, poco niente. Il problema delle escursioni, delle sospensioni indipendenti davanti. Questo deve essere alto quanto voi, da. Cosa? Questo è alto quanto voi, invece, l'Endrobe è alto quanto voi. Sì, sempre nel limite, perché poi modifichi tutta la geometria, capito? Tutta la geometria, tutto il baricentro, si sposta tutto. Poi è un macello a riequilibrare. Devi allargare, cosa c'hai? Cerchi scampanati, distanziali, cos'hai? No, ce l'avevo, c'ho i cerchi scampanati. Cerchi scampanati al massimo senza mettere gli stanziali, perché è un macello poi. Sei più sicuro con il cerchio, dai? Sì, non c'è questo cerchio attaccato alle torrette e si possono spezzare da un momento all'altro, è un casino. Io avevo messi quelli da tre nel pagero. Però già te allarga un po', è più stabile. Sì, allarga, però c'è sempre sopra un pezzo di metallo spossato attaccato al cerchio, capito? Cioè poi il materiale è buono. Anche nei Mitsubishi ce l'avevo i distanziali, c'erano da tre. E caricavo perché il mio era quello cassonato. Sì, no, già sono abbastanza robusti, sono fatti in alluminio, però un alluminio particolare, molto abbastanza rigido, abbastanza resistente. E si conferma, vabbè, però quando fai fuori strada o cose è sempre meglio avere il cerchio scampanato, capito? Cioè poi ti lavora meglio anche il semiasi, i cuscinetti, tutte cose. E i cuscinetti da soffrono un po', quando ti sposti verso l'esterno, la forza sul cuscinetto aumenta, quindi penso che abbia una durata molto inferiore rispetto a un cerchio normale, però tutto non si può avere. Davvero? È bello, Pia. Vabbè, sto uscendo, sì. Sempre bene. Ah, sei più basso, Giatto, come vai? Io? Sei 9,5, prima arrivavo ai 9,20 e più. Ma ho passato, adesso sto uscendo con neanche 5 watt. Ma chi c'è? Io. Tu, Daniele, comunque lo stavo dicendo, riascoltando quella cosa là, Daniele, cazzo, è potente, Se te l'ho detto, se tra l'altro ti mando la foto di questo e poi mi dici se non è identico, vabbè, non come estetica, ma funzioni. Comunque mi stavano sempre di meno. Sempre di meno. E poi ti dico quanto. Va bene, ma l'importante è che l'hai preso. Come veni gratis, vi credi, va da Rai. Ma l'hai preso almeno, sì. Eia. Già va bene. Mi guarda, fanno la foto del mio. Beh, ok. Oh, tu qua mi arrivi sulle più del 30, mi arrivi. Beh, tu, prova. Uno delle prova. No, 9,10 sei già, boh, però arrivai più forte. Vabbè, io non posso toccare niente qua, Solo quando arriva l'altro, l'altra bestiolina. Cambio. Guarda così, si aumenta. Prova. 1, 2, 3, prova. Ah, adesso sul più sei del 30. Ma così sono troppi per noi. Cioè, così sono attaccato. Vabbè, a posto, va. Ma tanto in questi giorni non c'era nessuno. Tu che è strana questa frequenza. Non mi dico, non vedi niente. Molte volte non c'è nessuno, manca 45. E non capisco il perché non c'è propagazione con questo tempo. Adesso avete lo stesso segnale. Lugariere, questo periodo è strano, non è stabile. Ancora si deve assestare, capito? Dipende molto anche dal tempo e tutte cose. c'erano giorni che arrivavano una sopra l'altra, non si capiva nulla, ma segnaloni forti sembravano qua dietro, e giorni che proprio è zitta. Prova, fammi sentire questo qua, ecco, regolano quello, non lo so, se è come il mio, fammi una prova. Guarda un po', Lugarie, com'è qua la storia, cambio. No, rifà il passaggio, dire capo, capo. Capo, capo. Bravo, sì. Dai, che c'è? La M25 è fuori, torna a piazzare una tenda e ci sentiamo magari dopo. Appena finisco mi faccio accompagnare a casa. Se ci siete, a dopo, se no alla prossima. Dai, ciao. Ehi, allora, va bene, già siamo qua, dai, ancora per un pochino, già ci sono. Ciao, ciao Luca. A frappe, come si dice? Fuggito, Ma sto innescando, fra. Tu? Ehi. Poco fa appena si stava iniziando, però non ha innescato, era all'inizio, quando c'avevi l'eco però Un l'eco? Ma un filino lì, cioè quasi impercettibile. Cappa, io non so più, siccome c'ho la cassa esterna, quella mi aiuta a sentire meglio, capito? Non come la colonnina che c'è dentro la radio. E con quella ascolto molto meglio anche i segnali bassi e tutto. Però secondo come la metto inizia a innescare, è abbassato pure il parlascolta. Anche io ho dietro, diciamo, il microfono, ho la colonnina esterna. Anch'io un po' per problemi di udito, qualcosina l'ho persa. È un po' perché va meglio, ce l'hai di frontale. Piccola, è una cassa piccolina, quella da palazzo, da baracchino. No, io l'ho messo una cassa grande. E c'avevo lì scapola. L'ho attaccata. Quella l'ho messa sotto l'alimentatore, per non metterlo in terra dall'alimentatore. Ho utilizzato quella cassa lì per come appoggio, come supporto. E lì ho messo una piccolina, una spia piccolina. Sarà 10 cm per 5. No, la mia è preistorica, si può dire, perché è un vecchio giradischi, diciamo. Con la sua proprio carcassa e tutto, c'è una colonnina dentro piccolina, non tanto grande, tutto buccia, di quelle rivestite, diciamo, finta legno, dai, e poi tutto truciolare dentro. Io ho capito, no, questa è proprio fatta apposta, c'è la tappa per attaccarla dentro la macchina o qualche camion, no? Proprio fatta apposta per gli apparati. Ho capito, no, questa è la vita chicca, la volevo mettere in macchina per sentire meglio la radio, perché con quel trattore non si sente nulla. Ci vorrebbe sì, ma almeno una come quella che ho io, piccolina, che però c'è una bella resa, la voce si sente veramente bene. Anche questa già funge. Gava, l'ideale sarebbe fare l'impianto dello stereo, ma è un macello. Se ci sente qualcosa sotto, vuoi collegare l'uscita allo stereo, all'amplificatore? Cappa. Non lo so, ma penso che sia fattibile, penso di sì. Sì, vabbè, basta prendere un jack che esci dalla radio e lo attacchi allo stereo. Poi si attacca il telefono, si attacca il baracchino, è uguale. Sì, se hai l'ingresso nella radio, sì, se hai l'ingresso da 3,5 con jack. Sì, c'ho tutti e due gli attacchi, sia USB che a jack. Certo che uno vuole essere e l'altro vuole mono, ma non cambia nulla. No, l'uscita la colleghi sia al canale destro che al canale sinistro, più la massa, e così la senti a tutte e due le casse nel suono. Si conferma, ma è tutto da vedere, dai, magari non so se innesca pure quello lì, c'è un amplificatore, sub, tricky track e rock and roll. Anche lì. Sì, lì l'ho fatto proprio l'impianto serio, vero e proprio. Tutto costruito io, ho procurato sia il sub che l'amplificatore, capito? E già spara, ma la sorte. Scusa che non ho suonato il campanello. Cava. Dai, ti devo salutare, Daniele. Daniele, ci sei? chiudere, dai, che ho gente. Ci sentiamo alla prossima, un abbraccio e alla prossima, dai, ciao. A Parroggio, dai, alla prossima, e cordialità se tra di mano, dai, contro a cambiare al 100. Ciao, ciao, buona serata. Ciao, grazie anche a te, ciao.